e adesso saranno loro stesse a proporsi con appunto il loro nome e cognome e il luogo di provenienza. A voi, prego. Good evening everyone, sono Paola Caiati da Las Vegas, Stati Uniti. Massalama, sono Elisiana Pizzianti, vengo da Algeri. Ciao, mi chiamo Sandra Marchigiano, vengo da New York, sono contenta per far sta sfilata. Ciao, sono Caterina Vassallo dalla Germania, un gran bacione alla... Ma perché filosofia non ce le sei del Vasco Rossi? Ma perché ragioneria non la spiega Umberto Tozzi? Ma perché la geografia non la ritma la bandoglia? E perché sto paradiso non lo canta mai Madonna? Studiare in jeans, se più facile. Non ci stanno dalle ronde. Ma perché come bidello non ci sta Simon Le Bombe? Ma perché non c'è Bruce Springsteen a insegnarci un po' di box? Cioè, ma perché a fare ginnastica non ci sta Samantha Fox? Studiare in jeans, se più facile. Studiare Ariosto con un video game. Oh, oh, eccoci jeans. In jeans col compact disc. Uè. Uè. Buon anno da Madonna e Samantha Fox, intercambiabili ovviamente. Tanto i capelli, nessuno, vabbè, niente, zero. Quelli zero. Lasciamo perdere. Avevamo dato, sì, insomma, sfoggio di noi quando l'ultima volta, un mese fa? Eh sì, poco meno. Guarda quanto tempo queste bruschette che bruschette avranno fatto in tutto questo tempo. Si sono ammuffite. Sì, si sono ammalate, si sono riprese, si sono riammalate, si sono riprese. Ragazzi, sono state in di casa. Oggi hanno sgomberato un posto, è un casino. Davvero. Come si fa, ragazzi? Qui non si fa pari. No, non ce la possiamo fare davvero. Ma. Ma noi siamo tornate a portarvi un po' di brio. Le voci sono ancora un po' basse, sono ancora un po', come dire, casarrose. Stavo cercando un termine più stile mal sottile. Un po' boitiano invece. Pane no. Al pane, catarro al catarro. Ecco, perfetto. Quindi ora iniziamo. Si fa la fiera del medicinale. Quanti ne hai preso tu di medicinali? 3. Tachipirina, cortisone e ovviamente l'antibiotico. Ti vedevo un po' più pelosa qui intorno agli occhi. Mi sembravi un orsacchiotto. Mi sono trasformata in Jenny Savastano, quello di Gomorra. Sono cresciuto. Oh, wow. Okay. Hai capito Wendy? Hai capito Wendy? Grandi citazioni. A Basticca l'hai presa. A Cazzimma l'hai presa. A Cazzimma. Lo sai che io ancora non ho visto Gomorra? Devi guardarlo, molto non bello. Non ce l'ho fatta, mi sono arresa subito. Le prime due ci serie riproverò. Sono molto belle. Sì, scarica o guarda con i sottotitoli perché non... Ah sì, addirittura? Non ce la si fa. Dai. Non ce la posso... Io che ho il cognato napoletano... Ma guarda, non... vedi, no, no, okay. Non questo, mi ricordavo questo dettaglio. Non premetto una conoscenza. Ma credo che la mia voce sia bassissima. Come mai? Come mai? Dateci un feedback, se ci sentite bene. Tanto noi abbiamo già iniziato allegramente a farci i cazzi nostri. Sei altissima, brava. Io sono bassissima, come nella vita. Ah, perché hai il microfono spostato in giù. Sì, ma ecco, ci sto sento parlando meglio. Dentro, però mi si sposta. E dopo un mese non mi ricordo più come si usa la regia. Pronto. Perché questo coso mi viene in avanti, mi spinge. Descriviamo il coso ai nostri amici, la volgarmente detta sputacchiera del microfono. Che puzza di sputi, ovviamente. Di tutti i nostri amici wombati. Bene, bene. Tutti i wombati sputano qui e noi siamo felici di fare altrettanto. Esatto. Ma detto tutto ciò... Si riprende il discorso che si era lasciato. Sì. Cari miei. Sospeso, ragazzi. Vi ricordate di che cosa avevamo parlato l'ultima volta? Io me lo ricordo. Si parlava della virgola, ecco, sicuramente. Quindi... non mi ricordo male. E invece oggi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggiunto un punto alla virgola e detto fatto, pronta una puntata. Puntata sul punto e virgola, ragazzi. Ma non sarà una puntata troppo, come dire, vista dal punto di vista... Oddio, ho appena mangiato il microfono. Dal punto di vista morfologico, sintattico, sarà più che altro un racconto su... lo stato di salute del povero punto e virgola in Italia. Non ci sta. Non ci sta, ragazzi. Hanno smontato la regia. Tra l'altro io vorrei lasciare un messaggio minatorio all'interno tra noi wombati. Io ho sentito una trasmissione in cui si sentiva nettamente per due volte il rumore di un accendino che partiva. Ai. So chi è. Questo non va per niente bene. So chi è. Faremo un esposto. Un esposto alla procura del Wombat. Sì. Ecco. Insomma, parliamo del punto e virgola. Partiamo da una citazione di tale Ida Bauer. Oh. Che dice: credo nel punto e virgola e in tutto ciò che non abbia la superbia di sentirsi definito. Perché è una religione. Esatto, il punto e virgola è una religione, sì, sì. Un po', come dire, in abbandono, un po' oggetto di idiosincrasie varie, soprattutto dal punto di vista della comunicazione via web. Purtroppo è la scrittura via web giornalistica, la media si sta trasformando... Mi verrà il naso come un uomo. Cilibiri di Kodak. Perché questo coso fa così, una cosa strana, va bene. Ok, andiamo avanti. Se volete però possiamo acchittare il microfono e mandarvi un primo pezzo. Ecco, sì. Così non si acchitta. Non e così acchitta, è, così rimane. Quindi ciccia, per non dire puppa. Ecco. Si può dire. Sì, oggi si può dire tutto. Prima puntata del 2018. Fate il capodanno con noi il 18 di gennaio. 18/01/18, dai, è comunque una data carina per riprendere alla grande. Sì. 18/18/18, quella famosa 18, barzelletta 18, 18, di Gigi Proietti. 18/18/18, mi vesto, mi lavo 18/18, bellissima. Forse l'avevamo anche già mandata. Possibile? Non lo so, ma la rimanderemo perché va sentita, sì, ragazzi. Ne vorrei mandare una, ma senza vedere l'espressione, non che so. Fa lui. Sì, quella, niente, della, quella della nonna. No, non fa, non fa. Niente, via. Riprendiamo. Sì, andiamo avanti. Sì. Insomma, siamo d'accordo con Ida Bauer, sì. Sì, che questa è una religione, che bisogna credere nell'Wombat e anche nel punto e virgola. E quindi il nodo della questione è questo qui. Ma voi ci credete al punto e virgola? Io l'avete l'ho mai visto una notte, aspettavo sotto la panca nascosta, gli lasciai dei biscotti. È arrivato, sì, il punto e virgola. Sì. Quindi non è una leggenda metropolitana, esiste davvero. È chiaro. E come mai allora nessuno gli vuole bene a questo punto e virgola, poverino? Perché è difficile da usare per la massa, perché dici come faccio a usare due punti insieme, un punto e una virgola, cioè o uso uno o uso l'altro, è così. E questa però è la bellissima capacità, diciamo, di combinazione dei segni che la lingua ci dà, per cui... Useresti mai una parentesi graffa e una tonda direttamente così, due segni così? Sì. Perché no? Mi è venuta in mente una cosa bellissima, tipo il Codex Serafinianus, che è un libro meraviglioso in questa lingua fantastica, creato da un architetto romano agli anni 70, una cosa meravigliosa. Quindi che sì, bello. Il Codex. No, è che questa, visto, poverina, non la usa più nessuno perché nessuno ti insegna come a si usarla. Usa. Punto. Esatto. Tutto qui. È tutto qua. E infatti noi vi abbiamo riportato un bell'articolo quando Repubblica ancora scriveva cose decenti, si parla di 11 anni fa, nel 2008. nella, ovviamente un articolo d'archivio che già appunto 11 anni fa dava addio al punto e virgola come segno di interpunzione, cioè si era già registrato un calo di quello che era l'utilizzo e soprattutto la, la funzionalità, se così vogliamo dire, del punto e virgola. Perché cita l'articolo: se il punto e virgola si limitasse a morire, pace. Ma il fatto è che la sua obsolescenza, quindi già un termine che abbiamo rubato alla tecnologia e insomma a, alle scienze più pratiche, ispira controversie. Non sono passati molti anni da quando Alain Truss vide diventare un bestseller internazionale il suo libro dedicato alla tolleranza zero per gli errori di punteggiatura, che non è mai è stato tradotto in italiano nel 2003, ma non so chi lo editi, se sia ancora disponibile, però se cercate questo titolo sicuramente lo trovate. E insomma, continuando con l'articolo, un libro che ovviamente contiene un'appassionata difesa del punto e virgola. Sta parlando un anglosassone, per cui grammatica e sintassi davvero molto più semplificate rispetto a quelle delle lingue romanze e di un altro, di un'altra parte delle lingue germaniche, ma appunto un'americana che parla inglese e che difende in maniera strenamente il punto e virgola. E, praticamente, insomma, in questa difesa ci dice che deve... scusate, mi ha perso il segno perché ci hanno suonato alla regia del Wombat. Ci deve essere sotto qualcosa, no? In questa particolare perdita. E i periodi si accorciano, le subordinate non divengono incassate più tanto spesso a causa dell'aumentata velocità di scrittura e di lettura. Quindi è un'accelerazione dei tempi di scrittura e dei tempi di interpretazione di questa. E le funzioni del punto e virgola risultano di conseguenza meno richieste, come diplomatica in questo articolo. L'autore è veramente diplomatico. Inoltre, il punto e virgola non ha un colore virgolettato ben definito e quindi, proprio come il maiale nella fattoria, risulta inutile ai fini espressivi e alla fine addirittura diviene irritante. La prosa corrente contemporanea, che sparge punti fissi per far sobbalzare il lettore come su una macchina sfrizionata, usa le virgole al posto dei due punti e viceversa. Non sa come tagliare il punto e virgola in un modo che prenda un effetto accattivante. Un segno di dosaggio ha vita difficile in un mondo che straborda. Questo era un piccolo estratto da questo articolo che potete ritrovare tranquillamente online cercando Repubblica punto e virgola. È un bello stralcio ed è un'analisi molto interessante che insomma ci piaceva proporvi questa sera, così in maniera un po' fresca e anche abbastanza diretta, per cercare di riprendere il filo del discorso da dove l'avevamo lasciato prima di Natale, quindi insomma ormai un mese fa. Questo era il nostro buon anno di partenza. E che dire, prima direi insomma, di fare tutto. Comunque da una piccola parte di uso del punto e virgola, e le funzioni, e le applicazioni, direi che un pezzettino ve lo possiamo fare ascoltare così. Vuoi ascoltare un po' di musica? Sì, per prendere fiato. Oh, bene, allora ti mando questa, Guarabellina. Gioca capito, perché non è domenica pomeriggio. Esatto, il nostro amico della domenica pomeriggio, i nostri amici della domenica pomeriggio saranno contenti di aver sentito sì. i famosissimi ormai, i Fatei, Fatei. Nabat. Fatei non serve dire no. I Fatei. Che, perché li abbiamo messi? Perché abbiamo riscontrato un pochettino questa moda molto hipster, è molto... vero. Di tatuarsi il punto e virgola. Sì, signore e signori. Sui polsi, sul collo, su, insomma. E il punto e virgola, dove altro. Ecco, dove non finisce una sole. Cosa del tutto, inizia un'altra. Lì, il perineo. Bello, dove non batte il sole. Sì, mi piace. E insomma, dai spesso. Ragazzi, piuttosto che tatuarvi i cosi hipster, i punti e virgola, tatuatevi Nabat. Sì, dai. Tutti e cinque. Quanti erano? Cinque, quattro. Quanti sono? Sì, sì, sono, poverine. Sì, dai. Alla no, fine, erano sì. perché ormai suona un poco. Anche nonostante la grande richiesta che c'è in giro in ogni concerto. Qualsiasi genere, qualcuno deve sempre urlare Fatei Nabat. Anche chi non li conosce, anche chi non me li conosce. Richiede. Dai, però sono storici. Anche mio amico Nicola di Treviso lo urla sempre. Vedi. Un saluto a Nicola. Ecco, brava. Che è un violinista, ormai Fatei Nabat anche loro. Ah, guarda, che bello. Bene, dai, che dire. Gli rompiamo i coglioni a questi nostri amici... Però io voglio un sottofondo per questa cosa. Adesso dimmi che parli seriamente. Parlo seriamente, ragazzi. Mesdames, messieurs. Ed ecco che partirà un sottofondo. Non partirà. Partirà per parlare dell'uso del punto e virgola. Eccolo! Il punto e virgola indica uno stacco intermedio tra due proposizioni di un periodo. Più forte della semplice virgola e meno forte del punto. Può separare tra di loro due o più proposizioni coordinate e per questo si rivela utile nei periodi lunghi e complessi. Grazie amici della Treccani! Il punto e virgola, benché sia in generale il segno interpuntorio, cioè di punteggiatura, meno ricorrente, è saldamente in uso in ambiti di scrittura accurata o colta. Oltre che nei test argomentativi, la sua funzione è vitale nella poesia novecentesca. Sentite questo crescendo, è bellissimo. Ed è molto riscontrato. Prendiamo che ne so, prendiamo Raboni, Giovanni Raboni. Segno di troppa vita o che manca, non so. E ogni notte mi sembra che puntini puntini. Questa sospensione, non so. Un periodo, come lo possiamo definire, dubitativo. Lo chiamiamo dubitativo? Anche un po' sospiro d'estate. Sospiro d'estate? Sì, sì, sì, questo era proprio un sospiro d'estate. E... quindi vedete, c'è questa sospensione che è in realtà quasi, nonostante sia un elemento di prosa, è comunque quasi poetica, non so. E ogni notte mi sembra che, e oltretutto inizia con una congiunzione dopo, per cui... Sembrano criminali, punto e virgola, sono come malati. Questo è Dentini affilati di Valerio Magrelli, un'opera del 2006. Ed è però... e qui dobbiamo fare una piccola postilla, quindi... che quasi si contrappone a questo uso contemporaneo, no? Nella letteratura. È raro nelle lettere tra giovani e nella scrittura giornalistica trovare il punto e virgola. Ok, per cui siamo su tre piani di comunicazione che sono perfettamente afferenti e più che afferenti, diciamo, contemporanei, no? Quindi, lettere tra giovani, punto e virgola, grande Nenia, sta tornando. Eccomi, oh. Sono tornata. Lettere giovanili, scrittura giornalistica, punto e virgola, completamente abolito, ma utilizzato nella letteratura. Ecco. È marginale nei giornali online per via... più che altro della tendenza ad essere così caratterizzati da una brevità sintattica. In realtà questa è una scelta che nessuno ha imposto, sì. Cioè non dobbiamo per forza essere, collegare l'informazione e il reperire dati online come un, diciamo, meccanismo particolarmente veloce, nel senso la fruizione di un contenuto non dipende dalla piattaforma su cui si trova. dipende dal tempo che abbiamo noi per leggerlo, per cui io potrei leggermi il libro di Simenon in 3 giorni perché ho fretta e metterci 20 minuti a leggere una merda di Firenze, esatto. Today, nel senso. Brava. E che dire, quindi sì, questo carattere forte della scrittura su internet, dove secondo sempre la nostra cara enciclopedia si esprime una cultura linguistica secondo loro appunto più incerta, che sì, non abbiamo troppe obiezioni a proposito. C'è poco da obiettare. C'è poco, sì, da obiettare. Effettivamente. E, questo lo dice anche la nostra cara bice Mortara Garavelli. Grande! Anche la bice lo diceva. E, negli usi informali attuali il punto e virgola viene sempre sostituito da una virgola semplice. Che in tal modo però... Rassegnati, Nina. Sì, però le gerarchie del testo così diventano particolarmente ostiche. È vero. Diventa una subordinazione continua e quindi un mettere sullo stesso piano all'infinito una cosa che in realtà non ha una profondità. Per cui. Tutto questo io nel frattempo l'ho mimato. Sì, perché noi siamo l'unica radio che è in grado di comunicare anche con i sordi. Ho messo la cipria bianca. Attenta che ti arrestano. Occhio, sì, attenta che ti arrestano. Occhio, occhio, occhio. Va bene, io ti farei ascoltare qualcosa, giusto per spezzare un po' questo pippone sul punto e virgola. Vai. E per farti prendere un po' fiato, perché mi immagino che dopo un malore influenzale tu abbia bisogno di prendere un Ho po' bisogno fiato. Di tossire. Hai bisogno di tossire e di bere qualcosa per rinfrescarti la gola. Quindi parto con una cazzata, se proprio lo vuoi sapere. La voglio. Allora, mi raccomando, sì. Lo sapevi, oh, stai tranquillo. Con educazione. Va, va. Allora, cominciamo a fare conoscere, cerchiamo di fare un uoca nuova. Allora, detta te la lettera, va, così dopo, ecco, va. Allora, caro... Aspetta, prima la data, no? Fritto. Fritto. Quanto se ne fa? Quasi 1500. Fritto le quasi 1500. Sai tu quando la vinci? Vabbè, chi scrive? Arriva una lettera a Roma, quasi 2000. Scusa, mia, testate quasi 1500. Allora, so, mi informo io sulla data. Allora, caro... Aspetta. Caro, no, mica il nostro amico. No, signore, fatto. Ehi, che ostro. Savonarola. Aspetta, no, non scrivere subito. Santissimo Savonarola. Santissimo. Come sei bello, per esempio, come si volesse morire. Santissimo Savonarola. Ma scrivi, è come sei bello. No, no. Santissimo Savonarola. Quanto ci piace. Non Paolo, sono ancora... Quanto ci piace. A noi due. Ma io si metto già che si mi seguace. Esclamativo ce l'avranno. Quanto niente, ci piace. Allora, se non si sa che sta l'esclamativa, ma che scrivi, scusa le volgarità. Scusa le volgarità. Volgarità. E che vuoi dire, Savonarola? Che in ogni cosa è peccato. A capace, mi sono punto esclamativo, che è questa cosa qua, l'uomo con il puntino, è peccato. Allora noi ci mettiamo le spalle su, scusa le volgarità. Le volgarità. Allora mettiamo la freccia, questo è un esclamativo, non è un... No, scusa la volgarità. Eventuale. Eventuale che sennò... A uscire come dici o no? Eventuale. Perché sennò chi lo diceva? Allora perché mi hanno scritto scusa la volgarità? Se non ci stanno volgarità vuol dire che volevano essere volgari, non ci sono riusciti. Ma c'è. Scusa le volgarità. Volgarità eventuale. Eventuale, punto. Che... Come va? No, va, santissimo, santissimo. Noi no. Lascia libere Vitellozzo. Lascia, potresti lasciare libero Vitellozzo. Se vuoi. Ci do come santissimo. Savonarola! Savonarola. Mo c'è chi ci spiega per bene, capito? No? Perché si fa così? Savonarola. Cade. Oh. No, anche digli lui è proprio uno per paura. Appunto, che Savonarola. Savonarola. Che c'è? E che? Oh! Diamoci una calmata, come dire, tutti insieme. Diamoci. No, sulla is. Diamoci. Diamoci una calmata, Oh! Metti Poi scrivi nel caso, scusa le parenti. Sì. E che? Ma qua pare che ogni cosa uno non si può muovere, che questo, quello è pure per te. Oh! No? Beh, sì, questo è quello. Oh! Due persone, personcine, noi siamo due personcine per bene. No? Non pensate che non facciamo male a nessuno. Cioè, che non farebbero male nemmeno a una mosca. Figuriamoci a un santo come te. Figuriamoci a un santone. A un santone come te. Anzi. Varrai più di una mosca, no? No, lascia. Guarda come metti in competizione. Anzi, già spiego tutto questo. No? Anzi. Varrai più di una mosca. Anzi. Ciao! No. No, cacciamo un saluto per bene, proprio, cioè da peccatore umile, capito? No. Noi ti siamo, cioè ti salutiamo. Con proprio non con... sappiamo nemmeno. Aspetta, proprio, no, serio, aspetta, proprio aspetta. Siamo. Ti salutiamo, sì. Con la nostra faccia sotto i tuoi piedi. È proprio un massimo. Sì. Perché? Con la nostra faccia. Il peccatore, uno fa una penitenza. I tuoi piedi. Senza chiederti nemmeno di stare fermo. Puoi muoverti. Che ha fatto tutti i piedi e si può camminare, ma così li pensi proprio a due umili, capito? Bellissima immagine, esatto. Quella faccia sotto. E puoi muoverti. E puoi muoverti quanto ti pare quanto e piace. Ti pare e piace. E noi zitti sotto. Vabbè. Noi zitti sotto. Punto. Scusa il paragone. La mosca il frate. Il frate. Non volevamo minimamente offendere. I tuoi peccatori di prima. Vieni a risalutare. Con la faccia dove sappiamo. Ormai gli si è detto. Cioè lui con la faccia. I tuoi peccatori con la faccia dove sappiamo. Sappiamo. Sempre sì. Sempre sì. Con tutti gli scricchioli della regia. Eccoci di nuovo. Eccoci. Qui, pronte. Ecco, sì, io avevo spento il microfono, l'ho riacceso. Hai fatto bene, anche ora lo spengo anch'io, guarda, per ecco. Dispetto. Yeah. Stasera erano, vabbè, c'è bisogno di dirlo. Dici? Noi non faremmo male a una mosca, figuriamoci a un santo come lei. Frittole. Bellissimo. E si voleva un po', insomma, come dire, fare un viaggio nel cinema, nell'uso delle lettere, no? Ma per delle lettere tipo epistola, perché l'abbiamo già fatto ovviamente con l'episodio famosissimo di Totò. Bello, sì, ovviamente. Questo però è... Questo è venuto proprio così. Questo è quasi meglio, secondo me. Dipende. E perché? Perché ora vi parliamo, insomma, perché questo piccolo episodio? Perché ci piacerebbe parlarvi della prima e della seconda vita del punto e virgola. Seconda barra ultima, ci verrebbe da chiedere. Chissà. C'è uno stralcio di Giuseppe Antonelli, che è un insegnante di linguistica italiana all'Università di Cassino, proprio quella del Placido Capuano, che abbiamo estratto dal magazine della Treccani, perché la Treccani non solo fa l'enciclopedia, ma fa anche il magazine. Per spiegare un po' la nascita e la vita di questo bistrattato segno di interpunzione, senza dovervi stare ad elencare. Madonna, le nasali, cioè stasera ho delle adenoidi veramente. Insomma, per. Adenoidi. Adenoidi, veramente in forma. Ne so due. Allora, noi in realtà stiamo facendo una trasmissione che dovrebbe essere mandata anche in diretta streaming. Sì, perché bellissimo. C'è Bob aggiusta tutto qui a fianco a me, che è riuscita però, la Neni è riuscita ad acchittare forse. Oh, ce l'ho fatta. Tra l'altro quasi. Ha anche veramente un aspetto molto più ordinato questo microfono. Sì, adesso diciamo di sì. Posso finalmente regolare il volume della mia voce, viva! Scusate, ma dopo non vi siete persi un granché, quindi possiamo continuare ad andare avanti. Vadi. Allora, Antonelli dice, la scrittura deve essere scrittura e non algebra. Che è questo ingombro di lineette, di puntini, di spazietti, di punti ammirativi, doppi e tripli, che io so. Sto a vedere che torna alla moda la scrittura geroglifica. E i sentimenti e le idee non si vogliono più scrivere ma rappresentare. E non sapendo significare le cose con le parole, le vorremmo dipingere e significare con segni, come fanno i cinesi, la poesia dell'ideogramma, no? Ti adoro, Giuseppe. Che altro è questo se non ritornare l'arte dello scrivere all'infanzia? Questa, in realtà, è una citazione che Antonelli fa all'interno dell'articolo dello Zibaldone di pensieri di Leopardi, datato 22 aprile 1821. Ah, ok, ecco, ecco. Ecco perché lo adoravamo così tanto. No, si vede. Che cosa avrebbe caro detto? Caro Giuseppe, non eri tu. Ti stavi servendo di parole altrui ben più note, ben più bello, dorate. Lo Ziba. Ziba. E l'Antonelli si chiede che cosa avrebbe detto, pensato oggi, messo di fronte alla punteggiatura enfatica e concitata della testualità giovanile, il caro Leopardi. Quella, insomma, che per intendersi delle mail, dei messaggi, con i tipici accumuli di punti esclamativi e interrogativi, oddio ragazzi, non lo fate, vi prego, io mi sento male ogni volta. Con i punti di sospensione sovrabbondanti, in serie che vanno spesso oltre i tre previsti dalla norma, tre... con le maiuscole che cercano di rendere il tono di voce e le faccine che mimano le espressioni del viso. A quelle, essendo abbastanza triviale, no, il messaggio, se non vogliamo passare per, come dire, per maleducati, forse è meglio mettere una faccina ogni tanto. Non è vietato, però... Io faccio dei periodi di depurazione totale. Lo so. Lo so. Mi impongo di non usare faccine. E la punteggiatura essenziale, beh, quella più o meno spesso, sì, quasi sempre, quella... però sì, le faccine ho proprio dei periodi in cui mi rifiuto di usarle. Ditecelo anche voi quando disintossicazione su Wombat. Posta Wombat chiocciola in siberia.net. Fateci sapere da cosa vi state disintossicando. Anania dalle faccine, io dovrei disintossicarmi dal cortisone. Ecco, e ci vorrà un po' di tempo allora per entrambe. Ecco, andiamo ecco. avanti. Quindi ci viene il dubbio che Leopardi sia stato ispirato profeta di questa cosa, o forse invece, si chiede sempre Antonelli, è lecito chiedersi se tutto quanto accade oggi nella punteggiatura, per usare un facile gioco di parole, non fosse già scritto. Anche di questo poi parla un altro libro, un altro passaggio che c'è all'interno di questo articolo del magazine della Treccani, che è il libro di Francesca Serafini. È un libro che parla appunto di uso della punteggiatura, e dove la punteggiatura viene utilizzata con un pregio particolare, che è quello di essere agile e divertente e di essere caratterizzato da un tono brillante e poco pedantesco. Sì, lei è stata carina nella scrittura di questo libro, è riuscita davvero a mettere in gioco un personaggio divertente e fare allo stesso tempo sì un gran bel manualetto, ve lo consigliamo. Quindi, hai visto, sta uscendo una puntata che molto sta colta, veramente colmando tutte quelle assenze di citazioni bibliografiche che volevamo portare all'origine, no? C'è tutto. Serafini, Zibaldone, che vuoi mettere? Ci abbiamo l'Antonelli. Io ti ho trovato anche un pezzo musicale adattissimo a questo momento. Allora, questo altissimo momento di radio. Questo altissimo momento radiofonico bibliotecario, guarda. Come... Ma il bibliotecario è quello del vernacoliere. Chiaramente, pensavo proprio a quello. Sciocchina. Un saluto a Paride. Ce lo metti, Muru? Io sì, mi sono sentita quasi in obbligo. Ascoltiamolo insieme, allora. Vai. What did I do wrong, oh babe? What did I do? danno occhiale astrale. Mi sveglia il nonno d'angelo, basta fuoco, impasta lettere in carta con calma. Ogni parola è un sentiero, che muta forma a contatto con l'aria. E lei cantava scrivendo shalala, mi verano a prendere, poi sarò pronta per tempo. Alzo pareti con flussi di inchiostro vivido, s'alzano i cieli fra i piedi dell'infinito, e la punta di questa penna che piange sopra la fibra richiama mondi perduti fra i fluti di una clessidra, dai. E quando viaggia segue rotte degli albatri e solca mare come i corni dei narvali, respira piano mentre leva palazzi, pochi tratti crea paesaggi fra spazi, archi e absidi, e mi sollevo in alto, così lontano che il mondo è un incanto. La mia scrittura qua scettro e corona, per me fonda ad ogni ora una nuova Roma. Ho rime libere, riso per sopravvivere, chiusa tra muri e muri, respiro con le mie liriche, e la mia penna è prassitele, erige il corpo d'Artemide ai limiti di due virgole. Sento il rumore di un tan tan distante, se accosto piano l'orecchio al mio foglio, quello che è il peso di Atlante all'istante. Se scrivo si alza e si perde nel vuoto, e quando verranno a prendermi al limite delle tenebre e troveranno un corpo ogni mia riga, se li potranno prendere. Sarò solo un corpo vuoto in questa stanza imbottita. E lei cantava scrivendo shalala, mi verranno a prendere, non sarò pronta per tempo, la la la. Paura non ho, mi sento scout e grato, ogni mio sguardo stanco opaco. Mi sento cadrò sempre per tua mano, stessa ora, stessa lana. Invento, e tu non sei come me, tu non dubiti. Ho dolore nel silenzio, l'incanto del destino, il fragore dei tuoi crepuscoli. Cauto e grato, ogni mio sguardo stanco opaco. Cadrò sempre per tua mano, stessa ora, stessa lana. E tu non sei come me, tu non dubiti. L'incanto delle spire, il fragore dei tuoi crepuscoli. Di gite, di tatuaggi. Sì, parliamo sempre di cose molto interessanti. Molto più a microfono spento. Ecco, un po' di tosse. La mia tossina. Povere. E siamo quasi arrivate alla fine della puntata, perché mancano Ma 12 guarda. Minuti. Questo pezzo era meraviglioso. Sì. Sì. Davvero. Era proprio il momento colto della Brusca. Musicalmente colto. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ecco. Ti colgo il momento della Brusca. Allora, cosa vogliamo parlare? Perché, scusa, mi sono messa a ridere perché ho visto il pezzo successivo. Forse non quello me lo finale? Farò sentire, chissà. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. meraviglioso. Abbiamo una chicca anche un finale. Un pochino di sottofondo così per renderti la puntata più briosa. Allora, vogliamo parlare del maquillage del punte virgola o l'eversione dell'estremismo interpuntorio? Come la Ho proprio l'imbarazzo della scelta. Vabbè, maquillage del punte virgola, facciamo una sintesi, vai. La maquillage del punte virgola è abbastanza facile, nel senso, il punte virgola è presente nella scrittura digitale, ma lo sapete come? Certo che lo sapete, con l'occhiolino ammiccante. Detto anche occhio ciocio. Esatto, c'è una guida del commediografo americano Sam Greenspan, che si chiama... Ripetimelo per favore. Sam Greenspan. Greenspan. Lo sono inventata, no? Sì, anche secondo me. Se non l'avessi visto scritto avrei detto vabbè, questa è una super cazzola. È una scanzonata guida intitolata 11 punti per rimorchiare, dove sostiene che il punto e virgola non vada usato nelle mail e nei social network, perché sennò si dà l'idea di quelle che si truccano prima di andare in palestra. Dai, però non è giusto. Dai, è carina questa. Come quelli che vanno vestiti di tutto punto alle giostre. Oddio, che... Hai visto in questi posti, magari c'è poco da fare. Mi sono immaginata appunto una roba tipo Gomorra, anche in questo esatto, caso. Sì, sì, un po' quello stile è quello. Quello lì, Si va magari in questi posti così, po'. Adesso alle giochi però con vestiti stacco bene. Da 12.000 centimetri. Ah, sì, è vero. Io l'ho fatto una volta per andare sul giochino della moto. Ecco. Quei tacchi. Che figa, ragazzi, davvero. Cascata. Chi non l'ha fatto? Chi? Io so che Liliana ha fatto un'altra cosa in sala giochi, ma non si può dire. Oddio, che cosa? Cosa ti ho raccontato? La risata, la risatona esplosiva. Vabbè. Non solo, nei T9 dei telefonini il punto e virgola si trova in una coda lunghissima dopo una serie di altri segni. Ecco. Tra cui addirittura il trattino basso e alto. E insomma, il professor Piero Zama ci dice in un riferimento, in un articolo di diversi anni fa, poi vi diciamo quando, che altro ci rimarrà della prosa di frammento, ma il punto e virgola ne è la parte ben morta. Salutiamolo con rispetto, ma senza troppo rimpianto. Correva l'anno 1939. Capito. Però, non solo, dopo questi 70 anni è quasi legittimo chiedersi cosa sia quale successo possa aver avuto un punto come il punto e virgola e un segno così intermedio in un'epoca che poi è stata dominata anche da un estremismo interpuntorio, perché la letteratura del Novecento è stata dominata dalla punteggiatura espressiva. La nostra cara, carissima, tantissimo cara anche alla Nenia, Bice Garavelli Mortara, nel suo utilissimo prontuario di punteggiatura della La Terza, dà una concezione piuttosto ingenua della punteggiatura che viene tramandata ancora oggi dall'insegnamento scolastico, e il sistema della punteggiatura viene scarnificato: virgole per pause brevi, punti per pause lunghe. I segni intermedi vengono giudicati superflui, proprio come il punte virgola, e l'idea complice ma falsa per cui la punteggiatura non avrebbe regole è affidata più che altro al gusto, per cui al nostro orecchio e la nostra, diciamo, capacità di voler interpretare o dare un'interpretazione di qualcosa, fornirla agli altri. Una tendenza questa che poi si riscontra oltre i confini della scrittura privata ed è attestata anche in quella professionale, appunto, come si diceva all'inizio, no? Quindi nella scrittura giornalistica e anche nella prosa letteraria di scrittori giovani. C'è il Vanni Fiorentino Nostrano, Vanni Santoni, che utilizza davvero forse il punto e la virgola e basta nella sua prosa. Non sono per niente d'accordo, non mi piace, ma è stato pubblicato anche dalla Delphi, se non sbaglio, per cui qualcosina la deve sapere. Però è appunto un, diciamo, modus operandi ormai consolidato. C'è il famoso La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano, che ha 36 anni, dove appunto anche lui usa solo 36 e usa solo virgole e punti fermi, a parte ovviamente tutti i vari punti interrogativi o i punti di sospensione, sì. Quindi l'interpunzione che serve proprio a dare espressività al testo. E che dire? Dire che è finita qui. È finita che qui. Ci salutiamo con questo amaro giovedì. Sì, perché sa, le giornate che iniziano con uno sgombero non sono mai carine. Esatto, infatti dalle 9 di stamattina questi poveri ragazzi, giovanissimi, lasciateli fare in pace. E non smorzate la voglia di essere diversi degli altri. Era la Crepa, un posto molto carino. All'Isolotto. Sì, lì proprio da Federica. Esatto, alla fermata del tram. Sgomberati da questa mattina dalle ore 8 più o meno. La vicenda è finita questa sera verso le 18.30. Due ragazzi sul tetto che... sono scesi e diversi provvedimenti, fogli di via e ospitate poco gradite alla questura della scientifica. Dovrebbe per cui... esserci ancora un po' di gente, quindi chi è in ascolto, se nessuno smentisce in diretta i magari nostri, ve lo diciamo dopo con 8 Hz. I nostri strumenti, però ecco, andate perché comunque un po' di gente è lì e capiamo un attimino, insomma, un po' di solidarietà. Comunque fate una piccola ricerca online, Facebook, tanto non li fermate. Giustamente, giustamente non ci resistete. Terrete tutti in casa davanti a Sky. Belli e bravi, massima solidarietà dall'uomo. Assolutamente, ragazzi, andate avanti e noi siamo con voi con il nostro cuoricino wombattoso. E sicuramente anche e qualche testa. Wombata ci farà avere delle informazioni, delle micro interviste che poi pubblicheremo nel giorni. Sito. Quindi tenetevi aggiornati, date un occhio al sito in nottata o massimo domani e saprete un pochino di più. Intanto solidarietà e cerchiamo di fare chiarezza su queste cose che sono sempre brutte in una città come Firenze, dove non c'è mai spazio per le realtà autonome, autogestite, e quindi benvengano e avanti alla prossima. E quindi un abbraccio a tutti, chi si è preso la pioggia tutto il pomeriggio, chi si è preso il freddo nelle ossicina, ma sono giovani e sono tosti, noi meno giovani ma siamo comunque dalla loro parte, ma siamo gli diamo giovani, un bacino comunque. E gli dedichiamo un pezzo orribile come soltanto noi della Brusca sappiamo fare. Esatto, ricordiamo birretta, velocissimo intanto. Sito, vabbè, lo sapete, twitter.com/radiowombatfirenze, facebook.com/radio-wombat-firenze, la mail è postawombat@insiberia.net. E che altro? Basta, ovviamente il palinsesto è pieno zeppo, aggiornatissimo, ci sono tantissime novità nel palinsesto, sì. Andatelo a leggere, a scrutare per capire cosa più vi può piacere. Repliche dirette, tantissime trasmissioni dirette, nuove, l'informazione era quello che mancava. Quindi occhio al sito per gli aggiornamenti dello sgombero della Crepa, per le nuove trasmissioni. Io vi lascio con la vera musica nel sangue e ci sentiamo mia, giovedì prossimo. Baci. Un bacio, ciao. Se la mia mente è strana e stanca, se l'animo ogni tanto manca, se c'è la luna accesa nella stanza, ho bisogno di te. Se a Parigi io lavoro, più ti penso più mi sento solo, al centralino chiedo il primo volo, ho bisogno di te. Se quando corro sulle scale mi batte il cuore fino a farmi male ed ogni volta sembri più speciale, ho bisogno di te. E poi mi stringi forte, forte di più, virgola, la gonna il resto sale più su, punto. È come fosse sempre la prima volta che ti vedo, che ti stringo, che ho bisogno di te, ti svegli piano piano. Ho bisogno di te che prendi la mia mano. Ho bisogno di te con ogni tuo difetto. Ho bisogno di te, ti sciupo dentro al letto. Mi piace un giorno in campagna, in mezzo al grano, ai fiori, alla vigna, ed un panino ed un bicchiere di vino, ma ho bisogno di te. Mi piace un'ora all'osteria, incasinata piena d'allegria, giocare a scopa con Cesira un tranviere, ma ho bisogno di te. Mi piace ridere in compagnia e con gli amici far cazzate nella via, ma l'orologio poi mi porta via, ho bisogno di te. Nella mia vita ci sei solo tu, virgola, sempre più bella, ti amo di più, punto. È come fosse sempre la prima volta che ti vedo, che ti stringo, che ho bisogno di te sotto la doccia insieme. Ho bisogno di te, ti voglio tanto bene. Ho bisogno di te senza neppure il trucco. Ho bisogno di te, mi lasci sempre di stucco. Fini.